aspettare ancora un po', ma fare a pugni col cuore non si può. E torno ancora da te, più innamorato che mai per dirti c'è, c'è che sto bene insieme a te, c'è che ti voglio ancora bene, e non è un giorno che stiamo insieme. C'è, c'è che ogni volta insieme a te, c'è che mi sembra di volare, è così bello ricominciare. Adesso freddo avrei voglia di un caffè, poi di restare abbracciato. Questa storia può essere anche mia, storia d'amore, di pioggia e gelosia. Se hai un amore anche tu, quando lo vedi gli puoi cantare. C'è, c'è che sto bene.